in primo piano. Buona giornata da Mauro Meazza. Vediamo come i quotidiani in edicola raccontano i fatti più importanti, quelli che avete potuto ascoltare anche nel giornale radio condotto da Laura Bettini pochi istanti fa. Naturalmente l'IMU, ancora l'IMU tiene banco, ma oggi si è aggiunta la sentenza della Cassazione per quanto riguarda il processo Mediaset sui diritti TV. Come probabilmente sapete, è stata depositata questa corposa sentenza. La sentenza naturalmente viene accolta con rilievi di segno assolutamente opposto per quanto riguarda le testate che sono più politicamente pronunciate. Altre testate dedicano comunque ampio spazio. Vi ricordo, se come dire, avete curiosità di leggere questa sentenza, reperibile ad esempio anche sul nostro sito www.ilsole24ore.com come documento. La lettura di una sentenza non è mai, come dire, una occupazione divertente, ma in questi casi forse è anche importante poter prendere visione diretta del documento. Vediamo comunque come i giornali si dividono, diciamo, su questi due temi. L'IMU da una parte e tutto il problema delle tasse, con anche l'incognita su quello che succederà dell'IVA, dovrebbe aumentare dal 1 ottobre, si cercano fondi per rinviare fino a dicembre, e dall'altra parte appunto la decisione, il deposito della sentenza su Berlusconi. Berlusconi, l'ideatore della frode, ad esempio, il titolo scelto da Repubblica, Mediaset, ecco le motivazioni, l'ex premier che reagisce: non mi elimineranno con un voto. La Cassazione spiega le accuse, dice la Repubblica. La replica, sentenza allucinante, la destra insorge ed Epifani, reato grave per un politico, adesso va applicata la legge Severino. A centro pagina l'altro tema di cui vi dicevo, le tasse. L'IVA aumenterà, bufera su Fassina. Dopo lo stop alla tassa sulla casa non ci sono altri fondi. Il viceministro del Partito Democratico dice: è il risultato della vittoria del PDL sull'IMU. La strana maggioranza, come la chiamano i giornali, questa maggioranza di larghe intese, quindi trova sempre qualche motivo per dividersi. Il Messaggero preferisce invece un titolo di apertura sulla casa, sulle questioni IMU. Così si cambia dopo l'IMU, la novità della service tax, risparmi e nuove tariffe per i proprietari, gli inquilini preoccupati, no a rincari. Si riapre lo scontro sull'aumento dell'IVA. Fassina dice: ma ora sarà inevitabile, il PDL replica: lo eviteremo. A centro pagina, con, diciamo, una scelta speculare a quella che invece ha compiuto Repubblica, Cassazione, l'ira di Berlusconi, vogliono farmi fuori con un voto, le motivazioni della Corte, fu l'ideatore del sistema illecito. Resta sempre in evidenza la Siria, così anche per il Messaggero, attacco alla Siria, Obama frena, ma daremo un segnale forte, è il virgolettato attribuito appunto al Presidente degli Stati Uniti. Il Giorno decide infatti di dare il suo titolo più importante proprio alla crisi siriana. Siria, la guerra si allontana, manca la prova schiacciante contro Assad e Obama frena, attacco limitato. Ispettori ONU, slitta il rapporto, la Bonino va da Hollande, l'Italia dice no. Sempre sul Giorno in prima pagina gli altri temi di cui vi dicevo, aumento IVA, scoppia la rissa nel governo, e le motivazioni della Cassazione. Berlusconi ideò gli illeciti, è il virgolettato per appunto dare in sintesi quello che è contenuto nelle motivazioni della sentenza, e lui, cioè Berlusconi, che replica: allucinante. Tocca IVA e lavoro è il titolo principale scelto da Avvenire. Si tenterà di evitare l'aumento dell'IVA e stimolare le assunzioni. Dopo l'abolizione dell'IMU si apre un nuovo fronte per il governo. Ecco cosa cambierà nella tassazione sulla casa per i giovani e per le imprese. Il Corriere della Sera decide di puntare tutto non solo sull'IMU ma anche su un particolare di questo intervento sull'IMU varato mercoledì con decreto legge dal Consiglio dei Ministri. L'amara sorpresa sulle seconde case. La maggioranza si divide sull'aumento dell'IVA, Letta che dice: facciamo di tutto per evitarlo. Le novità sulla tassazione degli immobili: gli inquilini non pagheranno più del 20% dell'imposta sui servizi. e un editoriale affidato a Dario Di Vico intitolato Il peso dell'incertezza. Qual è l'incertezza? L'incertezza è quella relativa alle decisioni di politica fiscale. Se, come ha detto Fassina, scrive Di Vico sul Corriere, si sostiene che ora, per colpa del superamento dell'IMU, sarà inevitabile alzare l'IVA, si crea solo confusione. Magari si tiene in caldo il rapporto personale con la CGIL, ma non si aiuta il Paese. Trovarsi, come è accaduto con le dichiarazioni del Premier Enrico Letta e di altri ministri, che contraddicono Fassina, e con le rettifiche del segretario e del responsabile economico del PD che vanno nella stessa direzione contro un collega di partito, serve solo a compromettere ancora di più il rapporto con l'Italia profonda, quella che dopo una modica quantità di ferie ha ripreso a lavorare e a produrre. L'arrivo del mese di settembre, conclude Di Vico, chiede dunque al governo un esercizio di chiarezza sul versante delle imposte, non aumentando l'IVA, su quello dei provvedimenti per la crescita, ma anche sul controverso tema dei tagli alla spesa. Dal ministro Fabrizio Saccomanni ci aspettiamo un passo in avanti nella politica degli annunci. Non è più sufficiente rassicurare genericamente l'opinione pubblica e i mercati. È arrivato il tempo in cui gli interlocutori si aspettano che il governo indichi quali sono nel dettaglio i risparmi previsti. L'incertezza si batte anche così. Vediamo allora un momento in dettaglio queste decisioni sull'IMU. Oggi molti giornali tornano sulle decisioni governative. Ricordiamo, sono decisioni affidate a un decreto legge. Questo decreto legge ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, quindi quello che i quotidiani raccontano si basa su ricostruzioni, su anticipazioni. Il Sole 24 Ore, che dispone insomma di accesso a fonti che possono garantire una, come dire, una visione del decreto legge, una visione del decreto legge prima che questo venga pubblicato in Gazzetta, presenta anche oggi 8 pagine di approfondimento su che cosa succede per l'IMU. E il tema delle seconde case, quello che appunto dà il titolo principale al Corriere della Sera, viene affrontato con molto dettaglio nelle pagine interne. Già il titolo però principale del nostro giornale è proprio dedicato a questo tema: prima e seconda casa, chi paga ancora l'IMU? Perché anche qualche prima casa pagherà ancora l'IMU. Allora vediamo alcune di queste 8 pagine che poi trovate appunto sul Sole 24 Ore in edicola. IMU solo su 70.000 prime case di lusso. Ci sono delle definizioni che risalgono al 1939 che definiscono appunto le case di lusso, ma sono definizioni che vengono facilmente aggirate, come spiega Saverio Fossati. Questo fa sì che solo su 70.000 prime case che finiscono in alcune categorie catastali continui ad applicarsi l'IMU per la prima casa. Da dove si ricava la categoria catastale? Si ricava facilmente dal rogito, altrimenti con una visura. La ricostruzione è affidata appunto a Saverio Fossati, al lavoro di Saverio Fossati in pagina 2. E poi il tema delle seconde case, spiegato da Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, pagina 3, seconde case, 1 miliardo di IRPEF in più. Forse qualcuno si sta chiedendo che c'entra l'IRPEF se parliamo di IMU, non è un lapsus. Per trovare copertura all'abolizione e comunque alla sospensione già dal 2013 dell'IMU sulla prima casa, il governo ha deciso di reintrodurre l'IRPEF sulla seconda casa, almeno in parte. I proprietari di oltre 6 milioni di immobili cosiddetti a disposizione pagheranno l'IMU e l'imposta sui redditi, spiega Gianni Trovati, e cioè un grande tabellone che spiega quanto potrebbe incidere questo rincaro nei principali capoluoghi. Vanno precisate due cose, quindi, che non solo i proprietari di una seconda casa che è tenuta sfitta a disposizione, insomma non è affittata, verranno a pagare l'IMU, continueranno in qualche modo a pagare l'IMU per il 2013, ma anche che questa novità dell'IRPEF che si aggiunge al pagamento dell'IMU è operativa già dal 2013. E questo infatti il titolo dell'analisi dei due colleghi Saverio Fossati e Gianni Trovati, che spiegano: lo statuto dei contribuenti finisce ancora nel cestino. Infatti lo statuto dei contribuenti direbbe che non si può dar luogo a modifiche nelle regole di imposizione durante il periodo di imposta in corso, quindi non si può dire, come sta accadendo appunto ad agosto o a settembre, che si cambia una norma con decorrenza dal gennaio scorso. Arriva l'IMU e cancella l'IRPEF, scrivono Fossati e Trovati, poi un pezzo d'imposta municipale promette di tramontare, quella sul mattone ritorna di prepotenza. Da due anni a questa parte, sul fisco del mattone, il lavorio è incessante, ma le tessere in gioco si ripetono. È ovvio che gli errori siano sempre gli stessi, il ritorno dell'IRPEF sui redditi fondiari non fa eccezione. Colpisce a casaccio, tratta in modo uguale situazioni enormemente diverse tra loro, si affida alla solita lotteria dei valori catastali che con la realtà degli immobili e quindi delle loro rendite hanno un rapporto casuale. A questo carnet consueto il decreto di mercoledì aggiunge un altro vizio pesante, anche questo ripetitivo quando si gioca con l'IRPEF. Lo statuto del contribuente viene gettato un'altra volta nel cestino perché le coperture sono urgenti e l'aumento guarda al passato e risale fino al 1 gennaio del 2013. Per un decreto tax free, come è stato definito, non c'è male. Non si vedono ragioni di equità da invocare per difendere la scelta. Non sembra equo rifilare la stessa imposta alla villa al mare, al bilocale vuoto, perché la crisi gli nega inquilini. E chiedo scusa. E quella data in uso gratuito al figlio. Si spiega anche così il fatto che questa novità compaia quasi in silenzio e in due commi privi di frasi lineari ma densi di richiami normativi, come capita appunto a certe scelte che servono a far quadrare i conti ma non fanno fare bella figura. Questo scrivono Fossati e Trovati, spiegando appunto, come fa il Sole 24 Ore di oggi, come funziona questo aggravio di prelievo sulle seconde case, che consente appunto di eliminare l'IMU dalla prima casa, sulle seconde case cosiddette a disposizione, che sono però un numero consistente di immobili. Più oltre, al di là delle questioni politiche, vengono anche spiegati ulteriori contenuti del decreto che riguarda l'IMU, come la deducibilità. Questa invece è una buona notizia, assegnata alle imprese che potranno dedurre almeno parzialmente al 50% l'IMU, una deducibilità che, avverte Giorgio Gavelli, premia chi è inutile, perché le aziende in rosso potranno sfruttare naturalmente questa deducibilità solo se e quando i conti miglioreranno. Sulla tassa rifiuti per il 2013 non stiamo ancora parlando della service tax, che dal 2014 dovrà inglobare tassa rifiuti, IMU e quant'altro. Sulla tassa rifiuti di quest'anno in corso ci potranno essere degli sconti decisi dai comuni, ma solo se i comuni riusciranno a compensare al loro interno le agevolazioni. E così infatti avverte Luigi Lovecchio, sempre sul Sole 24 Ore: tassa rifiuti, sconti a spese dei contribuenti. Ai comuni non è più consentito compensare le agevolazioni con le risorse di bilancio, quindi in qualche modo il comune deve poter fare i conti al suo interno con la tassa rifiuti. Ora noi ci fermiamo per qualche istante per ascoltare le informazioni meteorologiche. Vi annuncio soltanto, e ci torniamo dopo, non c'è solo il problema della copertura dell'IMU e quindi della lite sull'IVA, c'è anche un problema sui fondi per la cassa integrazione in deroga, duello sulla dote, avverte il Sole 24 Ore. Si sono annunciati 500 milioni, per adesso, spiega appunto Claudio Tucci sul Sole 24 Ore, ce ne sono 400 e in parte questi 400 sono ancora da coprire, ma ne parliamo più tardi, adesso ascoltiamo che tempo farà. In primo piano. Bentornati, un bentornato da Mauro Meazza alla nostra rassegna stampa. Stiamo consultando sui vari quotidiani, sui diversi quotidiani, come le questioni delle tasse, IMU, IVA, che aumenterà, non aumenterà, non sappiamo ancora quali potranno essere le decisioni del governo, e il deposito delle motivazioni, la sentenza della Cassazione, trovano spazio nelle prime pagine, nelle pagine interne. Ma vi dicevo, prima di fermarci per ascoltare le previsioni del tempo, non c'è solo il problema di trovare i fondi per tagliare l'IMU, per superare l'IMU sulla prima casa, c'è anche il problema di trovare i fondi per la cassa integrazione in deroga. Questo spiega il Sole 24 Ore. Claudio Tucci dice: il rifinanziamento dei sussidi in deroga 2013 annunciato mercoledì parte da una dote di 400 milioni di euro. Il Ministero punta ad arrivare a 500, come è stato annunciato al termine del Consiglio dei Ministri, per una parte dei nuovi fondi, però si è ancora in cerca di una copertura. Non solo, il Ministero dell'Economia avrebbe eccepito anche sul decreto che modifica i criteri di concessione della cassa e della mobilità in deroga, chiedendo un'impostazione ancora più restrittiva e facendo partire la stretta dal 2014. Quindi non è così scontato, appunto, neanche che vengano assegnati i 500 milioni che sono stati annunciati. Vanno, come dire, ancora precisamente individuati, così come va precisamente individuata la copertura per non far pagare la seconda rata dell'IMU. Ma vi dicevo già nella prima parte di questo nostro programma questa mattina, sul Sole 24 Ore di oggi, ad esempio, trovate 8 pagine di spiegazione di queste decisioni prese dal governo per quanto riguarda le tasse sugli immobili, questo speciale dedicato all'IMU, così anche molti altri quotidiani ospitano pagine di spiegazione, di illustrazione delle decisioni governative. Un'ultima segnalazione al Sole 24 Ore, anzi due. L'uno, l'asta dei BTP supera il test, è una buona notizia. Lo spread con i Bund, con i titoli di Stato tedeschi, scala a 250. Piazza Affari guadagna l'1%, il Tesoro ha collocato 6 miliardi del nostro debito a tassi stabili e poi c'è anche il prodotto interno lordo degli Stati Uniti che è salito più del previsto, 2,5% nel secondo trimestre. L'andamento dell'asta dei buoni del Tesoro, che è stato un buon andamento, viene commentato da Isabella Bufacchi, che avverte già dal titolo: non era un risultato così scontato. E infatti l'editoriale di Fabrizio Forché si occupa proprio di questo andamento dei mercati e dell'accoglienza dei titoli del nostro debito pubblico, ricordando: i mercati scelgono il prodotto interno lordo, ora tocca al governo. Scrive Fabrizio Forché: la miglior notizia è la reazione positiva dei mercati, l'abolizione dell'IMU è solo parziale, per la seconda rata se ne riparlerà. Intanto chi acquista o vende titoli nelle sale operative di tutto il mondo ieri ha comprato. I valori di borsa sono saliti, lo spread con i Bund si è ridotto, le aste dei BTP a 5-10 anni sono andate in porto. Non grandi spostamenti, ma quello che conta è il segnale. I mercati hanno ribadito, scrive Fabrizio Forché, innanzitutto il loro apprezzamento per tutto ciò che va nella direzione della stabilità del governo. Lunedì scorso, dopo i tam-tam del weekend sulla crisi, avevano punito Piazza Affari con un meno 2,1%. Ieri, dopo che Letta ha potuto affermare che il suo esecutivo non ha più scadenza, hanno risposto premiando l'indice MIB con un più 1%, indicazioni chiare di cui lo stesso Berlusconi non può che tener conto. La seconda segnalazione che vi volevo dare al Sole 24 Ore: il Ministero del Lavoro ha diffuso le prime istruzioni operative per le nuove regole sul lavoro, molto importanti specialmente per quanto riguarda l'utilizzo di collaboratori a progetto. Queste istruzioni su apprendisti, contratti a termine e lavoro intermittente e altro ancora sono spiegate, sono illustrate sul Sole 24 Ore di oggi nelle pagine interne, nella sezione appunto di norme e tributi. Vediamo qualche altro quotidiano, ad esempio La Stampa: dopo l'IMU si apre il fronte IVA, e la sintesi nel suo titolo principale. In cima, appena sotto la testata, si ricorda la questione siriana. Siria, gli Stati Uniti frenano, il Parlamento inglese dice no all'azione militare. La Stampa fa una scelta un po' diversa dagli altri giornali per quanto riguarda la foto che occupa una parte della prima pagina. Parla infatti del rogo nel parco di Yosemite, la California, che brucia da 2 settimane. Droni e sostanze chimiche sono state impiegate, vengono impiegate per domare il mega incendio. All'interno, appunto, Il reportage, la storia di Paolo Mastrolilli che racconta come Yosemite continui a bruciare, i pompieri chiamano i droni, incendi fuori controllo ormai da 13 giorni, gli aerei senza pilota guidano le squadre. Questo parco è grande più o meno, ricorda una cartina che illustra il lavoro di Paolo Mastrolilli, come la nostra Valle d'Aosta. Questo per darvi un'idea dell'importanza del parco e appunto anche del rilievo che ha questo incendio per lo Stato della California. Per quanto riguarda invece le questioni fiscali, il commento della stampa è affidato a Mario De Aglio sull'IMU, dice: via l'imposta, un vantaggio dal fiato corto, perché, dice De Aglio, in Italia le famiglie che possiedono almeno una casa, quasi sempre quelle in cui abitano, sono all'incirca 20 milioni. L'abolizione dell'IMU sulla prima casa costa allo Stato circa 4 miliardi e mezzo in minori entrate. Dividendo 4 miliardi e mezzo per 20 milioni si ottiene poco più di 200 euro a famiglia. Cifra senz'altro benvenuta, che non cambierà però le prospettive di nessuno. Potrà servire a far fronte a qualche possibile rincaro di origine estera. La crisi siriana sta cominciando a manifestare i suoi effetti sul prezzo dei carburanti, oppure a qualche spesa urgente dolorosamente rinviata. Presumibilmente il, virgolette, regalo, chiuse virgolette, derivante dall'abolizione dell'IMU riguarderà il solo 2013, in quanto nel 2014 all'IMU si sostituirà la service tax comunale, destinata sia a coprire il costo dei servizi pubblici locali, sia a colpire le rendite immobiliari. Una parte di quei 200 e più euro di imposta cancellata nel 2013 graverà comunque sull'insieme delle famiglie nel 2014 per il possibile aumento di alcune imposte indirette sugli alcolici, sui giochi d'azzardo, introdotto precisamente per finanziare l'abolizione dell'IMU. Quindi ancora si torna a questo nodo della copertura, il conto, come dire, brutalmente statistico presentato da De Aglio sulla stampa fa comprendere come questo addio all'IMU sulla prima casa sia anche, come dire, rischi anche di essere poco consistente nelle nostre tasche e portarsi invece dietro una serie di malesseri, per così dire, successivi, dati appunto al problema della copertura. I primi malesseri sono quelli appunto dell'IVA. IVA scontro sull'aumento è infatti il titolo scelto dal Secolo XIX, il viceministro Fassina che ha detto: salirà al 22% da ottobre, Berlusconi che replica: non se ne parla. E poi gli altri nodi: Monti che ha attaccato Letta, non dia nulla per scontato, e la stessa Unione Europea che ha detto, ricorda il Secolo XIX, l'Italia onori gli impegni. Sta a significare: attenzione, siete sempre a filo di deficit eccessivo, così è stato detto da Olli Rehn, quindi abolite le imposte, riordinate pure le imposte, ma sappiate che i vostri conti sono sempre, come dire, osservati speciali. Questo è stata la poco incoraggiante considerazione venuta per ora da Bruxelles. Tocca a IVA e lavoro, era il titolo di Avvenire. Vediamo invece qualche giornale, come dire, più spiccatamente politico. Il re della frode, il titolo scelto dal Manifesto, e quindi la notizia a cui si dà maggiore rilievo è quella del deposito, delle motivazioni della sentenza della Cassazione. Berlusconi, ricorda il Manifesto, virgolettando il deposito della sentenza, fu l'ideatore del meccanismo per ingannare il fisco. Arrivano le motivazioni della condanna in Cassazione, il cavaliere che dice: non pensino di farmi fuori con un voto. E Alfano agli alleati: riflettete. Il Partito Democratico che ha detto no ai tempi supplementari. Armi e diplomazia, un freno alla guerra, e poi il titolo al di sotto del titolo principale del Manifesto per ricordare appunto la questione siriana. Su Libero, un titolo, come si dice, di servizio, cioè per spiegare, per illustrare più che per commentare un evento, ecco chi paga l'IMU. E poi però il commento arriva appena sopra il titolo: fregatura in agguato. Ne abbiamo parlato anche prima, abbiamo visto visto come anche i colleghi qui del Sole 24 Ore mettono in luce questo rincaro pesante sulle seconde case, e Libero da parte sua interviene sullo stesso tema: stangata sulle seconde case e sugli inquilini, e la service tax è una patrimoniale mascherata. Berlusconi, secondo Libero, fa buon viso a cattivo gioco, ma è furioso. Il testo finale del Consiglio dei Ministri è una trappola. E poi un curioso accomunare con una caricatura: Monti, Fassina, D'Alema, che vengono definiti i tassicodipendenti, cioè coloro che in qualche modo si lamentano del fatto che possono essere abolite delle tasse, invitano a guardare i conti pubblici e il rigore dei conti pubblici, invito che peraltro comunque ci è arrivato ieri anche dall'Unione Europea. Da Libero al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano dà, come era da aspettarsi, il grande spazio, grande rilievo al deposito delle motivazioni della sentenza della Cassazione sul processo Mediaset. È stato lui l'ideatore beneficiario della frode, è la frase che viene riportata su una grande fotografia di Berlusconi nelle 208 pagine firmate da tutti e cinque i membri del collegio della sezione feriale della Cassazione. Le motivazioni della sentenza Mediaset inchiodano Berlusconi. La sua era, aperte virgolette, un'azione esecutiva del disegno criminoso. L'impero di Berlusconi funzionava come un elaborato gioco di gusci vuoti con la finalità di evadere le tasse. Il caimano, che non mi faranno fuori, con un verdetto allucinante, ma adesso è davvero indifendibile. E poi il Fatto Quotidiano dà rilievo ancora alla questione IMU, sceglie un dettaglio delle coperture: condono alle lobby dell'azzardo, il bluff IMU farà aumentare l'IVA. Quindi diciamo un giudizio molto tranchant, molto pesante dal Fatto Quotidiano. Adesso ci fermiamo per qualche istante, ascoltiamo come sta andando il traffico questa mattina. In primo piano. Bentornati, bentornati alla nostra rassegna stampa, ultima parte in compagnia mia, Mauro Meazza, qui dalla redazione di Viale Monterosa, da Radio 24 e dal Sole 24 Ore. Allora, stiamo un po' guardando su giornali più schierati, più dichiaratamente schierati in politica, come vengono trattate le due questioni che vediamo oggi si alternano con maggiore o minore importanza sulle prime pagine: il problema IMU, l'abolizione dell'IMU almeno per quanto riguarda la prima casa e tutti i problemi di copertura che porta con sé, non ultimo il fatto che potremmo quindi non avere risorse per scongiurare l'aumento dell'IVA da ottobre; dall'altra parte il deposito delle motivazioni relative alla sentenza Mediaset, la sentenza sui diritti TV, quella che ha deciso definitivamente la condanna di Berlusconi a 4 anni, l'interdizione dai pubblici uffici. Avviso ai furbetti, l'altolà di Berlusconi è il titolo del giornale. Non mi farò estromettere dai giudici e da un voto del Parlamento. Il Cavaliere torna falco per contestare le motivazioni della sentenza Mediaset. È un teorema senza senso e senza prove. E dopo l'IMU, adesso tocca all'IVA, nessun aumento, il PDL vigilerà. Il titolo del giornale quindi riunisce le due tematiche di cui vi dicevo in un unico blocco. Vittorio Feltri sul giornale firma l'editoriale intitolato «Se la sinistra si vergogna di averci tolto una tassa, reazioni surreali». Dopo lunga sofferta gestazione il governo ha partorito una buona leggina che elimina una pessima legge. L'IMU sulla prima casa non c'è più. Sarà probabilmente sostituita da un'altra fregatura, dato che la politica nazionale è equiparata al gioco delle tre tavolette, ma intanto è sparita. E gli italiani, oberati dalle rate del mutuo, umiliati da buste paga di magrezza biafrana e da bollette sadiche, gas, luce, telefono, eccetera, tirano un sospiro di sollievo, scrive Feltri. Il loro pensiero corre alla prossima tredicesima, che non rischia di essere saccheggiata da quella schifezza di tassa che colpiva chiunque avesse lo straccio di un tetto sulla capoccia, fosse anche gravato da ipoteca. Dice Feltri, appunto, scrive Feltri, è comunque una buona notizia che sia stata superata questa IMU sulla prima casa, si sia avviato il suo superamento, però appunto ci sono delle reazioni, specialmente a sinistra, che sembrano quasi spiaciute, dispiaciute della abolizione, il superamento di questa imposta. Chi mastica amaro, infatti, è il titolo che poi si legge nelle pagine interne, le vittime illustri della guerra dell'IMU, da Monti a Bersani, Renzi e Meloni, tutti politici col broncio per la cancellazione dell'imposta ottenuta dal centro-destra. Questo su Il Giornale. Sempre su Il Giornale, però, e questa notizia mi serve anche un po' per cambiare argomento, muovendoci un po' di oltre queste vicende economiche e giudiziarie, una notizia un po' diversa, che è sempre economica ma locale. Il comune alle casse vuote, Casinò di Venezia in vendita, scrive Marino Smiderle sul giornale. Con la gestione attuale gli incassi sono crollati, il bilancio comunale è in rosso, quindi la casa da gioco sarà ceduta all'asta, partendo da 184 milioni. Perché questa decisione? Perché per rilanciare il Casinò di Venezia servono investimenti che il comune attuale proprietario non può certo permettersi, anche perché deve scovare un centinaio di milioni di euro per rispettare il patto di stabilità 2013. Ergo, meglio cedere in concessione trentennale a privati intenzionati a migliorare potenziale case di gioco, non certo risparmiate dalla crisi economica. Questo racconta Il Giornale sul Casinò di Venezia. E poi c'è, sempre su Il Giornale e su molti altri quotidiani, questa notizia che in realtà è una foto, è un'immagine, viene anche commentata da diversi commentatori, del Papa, di Papa Francesco, che si è inchinato davanti alla regina Rania di Giordania. L'inchino del Papa gentiluomo è l'indicazione che accompagna la foto, il titolo della foto scelto dal giornale, baciamano alla bella regina. E questa galanteria del Papa fa scalpore perché, come sapete, è assolutamente contraria, sarebbe assolutamente contraria a quello che sapevamo fino appunto a prima di Papa Francesco sul protocollo papale. Se si aggiunge poi che la regina è musulmana, questo appunto potrebbe aumentare lo scandalo, ma in realtà i commenti dei quotidiani sono invece molto positivi per questo gesto di Papa Francesco, un gesto in qualche modo che umanizza la figura papale e rifiuta le formalità, come ormai questo Papa ci ha abituato a vedere. La stessa vicenda, infatti, viene ricordata ad esempio sul Corriere della Sera, l'inchino del Papa, l'inchino irrituale viene definito di Francesco Arania. C'è anche una sequenza fotografica e Luigi Accattoli ricorda altri strappi al protocollo, sempre da parte di Papa Francesco. A Roma aveva baciato su una guancia la presidente dell'Argentina Cristina Kirchner, a Rimo si è preso due baci dall'impetuosa Dilma Rousseff, presidente del Brasile. Ma l'inchino di ieri alla regina Rania segnerà di più la gestualità di Papa Bergoglio, che è tutta una sagra di inediti. L'inchino vale più del bacio perché ha una valenza gerarchica e se lo compie il Papa rovescia i ruoli. È al Sommo Pontefice, si ricorda il Corriere della Sera, infatti, che si inchinano gli ospiti, ma sappiamo che Francesco non lo intende così, non ama il titolo di Sommo Pontefice e quando ritiene di doversi inchinare si inchina, come faceva da vescovo di Buenos Aires. Già in Argentina una volta si era inchinato in uno stadio per ricevere la preghiera di benedizione del popolo, appena eletto ha ripetuto quel gesto dalla loggia di San Pietro: inchinatevi per la benedizione, è un invito liturgico che precede il segno di croce del celebrante. Con Bergoglio abbiamo invece un Papa che si inchina al popolo di Dio. Ma l'inchino di ieri non è liturgico, spiega Cattoli, ha invece un'altra valenza. Sta a dire che Francesco non si considera più alto in dignità rispetto a nessun altro. Quel gesto quasi galante verso la bella Rania non è diverso da quello con cui si sporge dalla campagnola per abbracciare, poniamo, una disabile. La sua estraneità alle regole del protocollo l'aveva già mostrata ricevendo in San Pietro le delegazioni all'inizio del pontificato, si inchinava per primo, anticipava il baciamano stringendo le due mani all'ospite. Ieri abbiamo visto l'ultimo frutto di quell'esercizio, i cultori del protocollo papale non la prenderanno bene, chi rappresenta Cristo non si inchina davanti a nessuno, aveva già scritto un sito tradizionalista appunto con riferimento all'Islam. Guarda caso Rania è musulmana. Quindi questo gesto molto umano in realtà del Papa che ha ritenuto di inchinarsi quasi appunto con una galanteria nei confronti di Rania, rifiutando così il protocollo che invece prevederebbe esattamente il contrario, nonché il baciamano al Papa, cosa di cui ci spiega Cattoli, il Papa fa volentieri a meno appena può. Ecco, questo gesto viene ricordato e segnalato su diversi quotidiani. Abbiamo scelto le segnalazioni del Giornale e del Corriere della Sera. E allora chiudiamo, visto che siamo in ambito Vaticano, con una inchiesta, un rapporto Eurisco che viene presentato sul secolo XIX. Italiani bocciati in catechismo. Il 92% si dice credente, ma nessuno sa più i 10 comandamenti. Un rapporto Eurisco che è stato commissionato dalla Chiesa Valdese, è stato presentato poi al Sinodo appunto della Chiesa Valdese, ci fa fare delle figure abbastanza imbarazzanti. Spiega appunto Lorenza Castagnieri, non sappiamo indicare in molti casi chi ha scritto la Bibbia, qualcuno dice Mosè. I 10 comandamenti quali sono? Difficile dirlo, le 3 virtù teologali mai sentite nominare. Italia, paese cattolico per eccellenza, insomma vive una sorta di analfabetismo religioso, spiega il secolo XIX riferendo di questa inchiesta di Eurisco, i cui risultati sono stati presentati nel corso del Sinodo Valdese che si sta svolgendo appunto in provincia di Torino. Il campione era di 2000 persone e appunto non ne usciamo molto bene, non ne usciamo molto preparati. Potremo migliorare almeno sulle conoscenze, diciamo, fondamentali, più, anche dal punto di vista storico, insomma, sugli autori della Bibbia o sulla conoscenza dei 10 comandamenti. Questa è la notizia ultima. Io ringrazio Gianmarco Ferronato che mi ha assistito questa mattina in regia e vi auguro una buona giornata.